Italia in controluce, la politica nel tunnel. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Questa è Italia in controluce, ogni giorno vi racconta ciò che avviene nella politica, almeno lo farà nelle prossime settimane fino a quando non ci sarà un nuovo Presidente della Repubblica, un nuovo governo del Paese. L'abbiamo chiamata così questa puntata, Quirinale, Milena Gabanelli, candidata del Movimento 5 Stelle. Ebbene sì, il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato, che dovrebbe sostituire Napolitano alla guida del Quirinale, e Milena Gabanelli, giornalista, scrittrice, conduttrice e autrice del programma televisivo Report di Rai 3. L'elaborazione dei dati è stata lunga, non priva di difficoltà tecniche, di polemiche politiche, ma alla fine il Movimento 5 Stelle è riuscito ad imporre la sua rosa di nomi. In ordine di preferenza, dunque, Milena Gabanelli, Gino Strada, Stefano Rodotà, Gustavo Zagabeschi, Ferdinando Imposimato, Emma Bonino, Giancarlo Caselli, Dario Fo, Romano Prodi all'ultimo posto. Sono onorata, commossa e anche sopravvalutata, ha detto Milena Gabanelli. E secondo voi è una scelta buona quella di Milena Gabanelli da parte del Movimento 5 Stelle? Non è appunto un po' troppo televisiva, come un po' troppo condizionata dal fatto che la televisione ha avuto in questi ultimi 20 anni, 25 anni un peso fondamentale, forte, troppo forte nella politica o comunque nel modo di far politica in Italia, e quindi questa candidatura è anche una sorta di condizionamento, giunge da un condizionamento degli italiani. Milena Gabanelli dice onorata, commossa e sopravvalutata. Secondo voi è una scelta buona, una scelta plausibile? Voi che scelte fareste al Quirinale? 349-238-6666, subito da Roma, Andrea Viali. Sì, Daniele, dunque diciamo è arrivata forse un po' a sorpresa questa candidatura di Milena Gabanelli, che quindi sarà candidata a 5 Stelle per la corsa al Colle, ha vinto le Quirinarie, non sappiamo quanti voti ha ottenuto né quanti sono stati alla fine i militanti che hanno partecipato a questa consultazione online. Lo dicevi nelle sue prime dichiarazioni, la giornalista ha detto di sentirsi assolutamente commossa e forse anche un po' sopravvalutata. Quando pensano che tu sia all'altezza di un compito così grande si può solo essere onorati, perché è altamente gratificante, ha spiegato la conduttrice di Report. Lo dicevi, la Gabanelli ha preceduto il fondatore di Emergency, Gino Strada, e poi Stefano Rodotà, mentre solo ottavo si è piazzato invece Romano Prodi, che dal punto di vista politico, come pure Rodotà o Labonino, forse sarebbe stato un candidato, un nome più spendibile. Sono comunque nomi quelli di Prodi, di Rodotà e dell'Abonino che potrebbero tornare in gioco in un secondo momento. I parlamentari 5 Stelle a questo punto dovrebbero decidere probabilmente a breve la strategia da seguire nel corso delle votazioni per il Quirinale. Vedremo se, soprattutto a partire dal quarto scrutinio, quando il quorum, lo ricordiamo, si abbasserà, decideranno di appoggiare altri candidati. Oggi i capigruppo 5 Stelle dovrebbero tra l'altro incontrare il segretario democratico Bersani, hanno chiesto che l'incontro, come il primo che c'era stato nei giorni scorsi, sia trasmesso in diretta su internet. Al momento siamo comunque fermi a questa candidatura, la candidatura di Milena Gabanelli, della quale ha parlato un'ora fa, poco fa, quindi possiamo dire, Beppe Grillo, che si trova in Friuli Venezia Giulia, ha parlato ad un comizio elettorale in provincia di Pordenone. Se sei d'accordo, Daniele, abbiamo un contributo audio, possiamo sentirlo. Ma vi sembra normale che Bersani e Berlusconi si chiudano in una stanza per decidere chi sarà il capo del governo per i prossimi 7 anni? Ma vi sembra democrazia questa qua? No, no. Noi abbiamo votato in rete, la rete, gli iscritti al movimento hanno votato. È venuta fuori la candidatura dei cittadini, bene? Allora, oggi abbiamo pubblicato chi è candidato per noi, per il Movimento 5 Stelle, come Presidente della Repubblica per i prossimi 7 anni, sono venuti fuori dei nomi straordinari. Io non ci avevo pensato. Il primo nome è la Gabanelli. La Gabanelli è una signora che è contro tutti i poteri forti, che fa indagini meravigliose, no? Ce l'ha contro tutti. Mettere lì un nome così è un segnale fortissimo di cambiare radicalmente le cose. Come secondo votato è stato Gino Strada. Gino Strada è un uomo apprezzato in tutto il mondo. Sarebbe un cambiamento folle. So che sono nomi inconsueti, che mi guardate così perché siamo abituati a quelli di 80 anni, 90. Bene, grazie ad Andrea Viale. Avete sentito la voce di Beppe Grillo. Vi abbiamo chiesto se è plausibile per voi Milena Cabanelli o la vedete bene al Quirinale. C'è chi continua a ripetere Bonino, chi ripete che per lui ha vinto Prodi sia ieri che oggi. Ottima scelta, dice Marco Sternieri, ha fatto più lei per la democrazia che tanti costituzionalisti. Un altro ascoltatore: la Cabanelli è una persona splendida, il movimento ha dato un'alta prova di serietà alla faccia di tutti gli altri partiti, scrive Claudio dalla Sardegna. Meglio condizionamento per la Cabanelli che per Berlusconi, ma che delusione il PD, dice Saverio da Sesto San Giovanni. Prodi al Quirinale perché c'è bisogno di competenza, basta con questi dilettanti allo sbaraglio. Gabanelli presidente, un altro ascoltatore, una cretinata in mano. Gabanelli dovrebbe a questo punto negarsi, secondo Lidia. C'è chi dice che, come Emiliano da Terracino, che la Gabanelli non diventerà mai presidente, ma è certo che è un'enorme richiesta di cambiamento. La TV anche al Quirinale, un'ennesima occasione persa dai 5 Stelle, ci scrive Nando da Cagliari. Avemo il miglior presidente europeo, non potevo più tornare indietro, dice Giuseppe. Giuliano da Roma ci chiede se ha 50 anni o più di 50 anni, non capisco il tema, cosa significa, cosa vuol dire che uno ha 50 anni è un mito, sotto i 50 anni è un mito, quelli che ne hanno più di 50 sono dei coglioni, alcuni nostri ascoltatori non riesco proprio a capirli. Beh, perché uno negli anni 90 derideva mai buongiorno per il quiz, alla fine dei Quirinali non sono nient'altro che l'evoluzione del telecomando interattivo. Sì, un'ottima scelta, dice un altro ascoltatore, anche se poi il report si priverebbe di lei, ci scrive Fabio. Intanto il PD che fa, Elisabetta Fiorito? Intanto il PD, Stefano Fassina ha appena detto che Bersani incontrerà Berlusconi, la Lega e il Movimento 5 Stelle, perché l'obiettivo è trovare un nome per il Quirinale il più largamente condiviso, mentre Renzi dice che l'Italia vive in un tempo di presente continuo, ma che manca quindi una speranza per il nostro paese. Ma è proprio Renzi a mettere i paletti su quello che potrebbe essere un nome per il Quirinale. Insomma, un pochino il sindaco di Firenze ha messo i paletti su quello che è un po' la partitocrazia, oppure l'apparato di partito, ecco, diciamo così. Quindi c'è stato un no ad Anna Finocchiaro, un no a Marini e praticamente resterebbe il nome di Giuliano Amato, e Giuliano Amato è un nome che potrebbe andare bene anche a Silvio Berlusconi, perché noi ricordiamo che Giuliano Amato comunque è stato socialista, era un uomo che è stato anche un uomo nel governo socialista di Craxi, è stato un presidente del consiglio tecnico, quindi potrebbe mettere d'accordo PD e PDL. Dall'altra parte il nome di Romano Prodi, che pure era apparso, ricordiamo, nelle quirinarie del Movimento 5 Stelle, almeno nella prima votazione, non mette d'accordo assolutamente Berlusconi e Bersani, perché proprio Berlusconi ha posto un veto sul nome di Prodi. Quindi bisognerà vedere che cosa succede ovviamente in questo incontro Bersani-Berlusconi per arrivare a un nome condiviso, ma questo nome potrebbe essere proprio Giuliano Amato, anche perché io per esempio prima, poco fa, ho intervistato Bressa del PD e mi ha detto: va bene, la Gabanelli è una bravissima persona, ma allora io pure posso candidarmi a diventare neurochirurgo, ma non ho mai esercitato la professione. Lasciamo Bressa alle sue elucubrazioni, grazie Elisabetta Fiorito. Siamo in chiusura, moltissimi sono gli ascoltatori. Federico da Modena: Gabanelli sarebbe fantastico, Milena Gabanelli un'ottima scelta, Giuseppe da Bari: una donna da bravura da vendere, assolutamente giusta scelta, viva la Gabanelli. Maurizio: ottimo la Gabanelli. Gino Strada, Laura Sambo: c'è chi ancora tifa per Emma Bonino, chi invece Romano Prodi, come Stefano da Reggio Emilia. Insomma, siete come sempre divisi. c'è chi ci ricorda, perché noi non lo sapevamo, no? Naturalmente, che ci vogliono 50 anni per essere eletto il Presidente della Repubblica, noi non lo sapevamo. Vi ringrazio veramente tantissimo di questa informazione che mi era ampiamente sfuggita, naturalmente scherzo. Ci rivediamo domani alle 13.30 per Italia in Controluce.